Cuando si pianta la vela polenta, la vela polenta si pianta così. Si pianta così. Si pianta così. Si pianta così. Oh, oh, oh, vela polenta così, sasampum, sasampum. Cuando si riega la bella polenta si riega così. Si pianta così. Si riega così. Oh, oh, oh, bella polenta così, sasampum, sasampum. Cuando si crece la bella polenta si crece così. Si pianta così. Si riega così. Si crece così. Oh, oh, oh, bella polenta così, sasampum, sasampum. Cuando si fiora la bella polenta si fiora così. Si pianta così. Si riega così. Si crece così. Si fiora così. Oh, oh, oh, bella polenta così, sasapum, sasapum. Cuando si corta la bella polenta si corta così. Si pianta così. Si riega così. Si crece così. Si fiora così. Si corta così. Oh, oh, oh, bella polenta così, sasapum, sasapum. Cuando si cuece la bella polenta si cuece così. Si pianta così. Si riega così. Si crece così. Si fiora così. Si corre così. Si cuece così. Oh, oh, oh, oh, bella polenta così, sasapum, sasapum. Cuando si mangia la bella polenta si mangia così. Si pianta così. Si riega così. Si crece così. Si fiora così. Si corta così. Si cuece così. Si mangia così. Oh, oh, oh, oh, bella polenta così, sasapum, sasapum.